Ettore era stato promosso e i suoi voti erano decisamente buoni. Eravamo soddisfatti del nostro piccolo moschettiere e siamo usciti sorridenti. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti e venerdì 10 giugno del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Quando facevo le elementari, avevo un compagno di classe che viveva con i nonni. Non ricordo esattamente quale fosse il problema dei suoi genitori. Mi pare che uno fosse sparito e l'altro invece non stava bene o più probabilmente usava sostanze che non gli permettevano di crescere un figlio. I nonni erano relativamente giovani e quindi quando li vedevo fuori dalla scuola non mi sembrava una cosa tanto strana. Però in giro per il paese le persone ne parlavano come di un'anomalia molto pericolosa per la crescita di quel bambino. Le altre mamme lo guardavano con un'aria di leggera commiserazione. Avete presente quella che fa piegare un po' la testa da un lato e inarcare le labbra verso il basso? Quel bambino ora ha 36 anni, ha una moglie, due figli, un lavoro che gli piace. E l'ultima volta che l'ho visto mi ha detto che ascolta il programma, quindi lo saluto. Alle medie poi ho avuto un compagno di classe che viveva sì con i suoi due genitori e quindi tutto sembrava normale. Solo che vivevano in una specie di comune, anzi a tutti gli effetti era una comune. Era una grande casa fuori Novara, in cui ci vivevano una quindicina di persone. Quando andavamo a fare i compiti a casa sua era un meraviglioso delirio, gente ovunque, una cucina con un tavolo lunghissimo e persone che arrivavano in qualsiasi momento, amici, figli di amici, fratelli dei figli degli amici, e poi un sacco di ragazze, su cui tra l'altro si poteva fare tutti i commenti che volevamo, perché non erano sorelle dell'amico. Quando tornavo a casa ed eravamo solo in quattro, mi sentivo un po' perso. Mi guardavi in giro come a cercare qualcun altro, come se la famiglia comunitaria fosse più interessante di quella normale. Non lo so se quella famiglia fosse davvero interessante o fosse solo un esperimento sociologico, ma il mio compagno mi pareva avere le stesse rogne e gli stessi desideri che avevamo noi, figli di famiglie ordinarie. Il vero scandalo però arrivò alle superiori. C'era una ragazza nella sezione B, io non la conoscevo personalmente perché non era mia compagna di classe. Lei viveva con due mamme. E io non ho mai capito se fosse la figlia di un primo matrimonio di una delle due che poi aveva deciso diversamente per la sua vita, o se invece in qualche modo, per me allora misterioso, da una coppia di donne era nata una figlia. Venivano a prenderla a turno, qualche volta anche insieme. E allora lì alcuni ipotizzavano fossero due sorelle, ad esempio, mamma e zia, oppure altri legami familiari socialmente accettati tra due donne. Poi una volta venne la mamma del mio compagno di Romentino, che era quella che ci veniva a prendere il sabato mattina in macchina, e disse che quella situazione era vergognosa. Il figlio le rispose che le sue mamme almeno non gli rompevano le palle a lei, come faceva lei con lui. Ecco, oggi si parla di questo, si parla delle famiglie non ordinarie, di persone cresciute con più di due genitori, ad esempio, o con genitori che erano cugini, zii, fratelli, o che magari erano dello stesso sesso. Con fratelli che non erano dello stesso sangue, invece, e nonni che facevano i nonni senza esserlo. Parliamo di questo e parliamo anche di persone che magari stanno crescendo in questo momento, in questi anni, i propri figli in una forma di famiglia che non è quella canonica, ma non per questo è meno famiglia. Ecco, oggi io sono qui. Pronto? Uno. Salve, cercavo Johnny Orwood. 36? Sì, sono io. Io sono Paul, il tuo donatore. Allora, come stai? Come stai? Sto bene, grazie. Tu? Sto bene, grazie. Wendy della Cryobank mi ha detto che volevi... Ah, sì, in realtà è stato mio fratello che mi ha chiesto di chiamarti, perché io ho 18 anni e lui solo 15. Ognuna delle mie mamme ha avuto un figlio, sai, col tuo sperma. Cioè, entrambe, diciamo? Sì. Diciamo in due? Ah, diciamo gay. Oh, bene, certo. Forte, sì, grande, sì, forte. Io adoro le lesbiche. 800240024 oppure 349-238-6666. Stamattina quando io e Aldo siamo andati ad accompagnare il piccolo Ettore, come vi racconterò a breve fuori da scuola, la sensazione era proprio quella di essere una famiglia strana. Però, cioè, lui la sua famiglia ce l'ha, ovviamente, no? Mamma e papà. Però sembravamo a modo nostro una piccola famiglia e secondo me a modo nostro ci stavamo anche comodi. Se vi è capitato di crescere in un gruppo familiare anomalo, o se lo state crescendo, o se ci state crescendo, 800240024. Titta, ad esempio, mi ha scritto sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Ultimo di quattro figli, con i genitori che lavoravano entrambi, sono praticamente stato cresciuto in una famiglia che abitava nel mio cortile di Ringhiera. Papà Rico e mamma Meme, cioè Enrico e Clementina, sono stati fondamentali per la mia crescita e da loro ho ricevuto affetto e tanto amore. Papà Enrico è stato il mio padrino di cresima e il mio testimone di nozze. Ci ha lasciato da poco, ma la mia mamma Meme vado a trovarla ancora oggi, anche se non quanto vorrei. 349-238-6666, ripeto, oppure 800-24-0024. Nunzia invece mi scrive: sono cresciuto senza parenti, la mia famiglia me la sono creata con gli amici, però Nunzia è argentina, mi pare, Nunzia, quindi qua è un altro discorso ancora, sono le persone che vengono da lontano, quindi se la formano una famiglia in qualche modo. Oggi invece vorrei proprio parlare con persone che la stanno crescendo, una famiglia, e non sono semplicemente la mamma, il papà, i fratelli e i figli, proprio perché mi è capitato di vivere questa sensazione in questi giorni. 800 24 0024 349 238 6666. Tra meno di tre settimane, è il 23. Scusatemi, il 23 di giugno c'è questa serata, meno di due settimane quindi, ci sarà la serata finale di Io Sono Qui. Continuate a scrivermi quali sono le vostre puntate preferite a Io Sono Qui, @radio24.it, oltre ad iscrivervi, cioè a prenotarvi, indicando quante persone sarete in quella serata. Il copione è quasi pronto, e visto che le suggestioni erano tantissime, anche ieri sono arrivate la puntata sui sogni, la puntata che si intitolava Ma cosa pensano le donne, e poi ancora il gruppo di puntate sull'investigazione, certo, il tenente Colombo, e poi la lettera di Agata, insomma, oggi ve ne leggo un pezzo di un'altra puntata che probabilmente sarà nel copione di quella serata, sarà nei racconti di quella serata, ed è la lettera invece di Vincenzo. Cara Anna, oggi è un giorno importante, oggi è venuta al mondo la tua seconda figlia. In ospedale stamattina sono a malapena riuscito a vedere il faccino della bimba e mi sembra già coriacea, come tutti i bambini che vengono al mondo urlando. Forse tu non te ne sei accorta, ma dopo la nevicata di ieri, oggi c'era una grande nebbia. E sai che io non mi trovo a mio agio con la nebbia, mi piace vedere dove vado, e poi qui a Milano non riesco mai ad orientarmi, figuriamoci se non vedo le strade. Invece che prendere un taxi ho deciso di venire in ospedale a piedi, dalla stazione. Avevo voglia di fare quattro passi. La nebbia era talmente fitta che sembrava di attraversarla, sembrava di doverla spostare con le mani. Insomma, mi sono perso. Ho capito che mi trovavo dalle parti di Porta Venezia perché ho visto il parco e ho riconosciuto il planetario. Mentre cercavo la via per l'ospedale, mi è successa una di quelle cose che non ti aspetti che ti capitino in un giorno di nebbia a Milano. Mi sono trovato davanti alla cancellata di una grande villa con un giardino e una vasca piena di ninfee. E nel mezzo del giardino c'era un gruppo di fenicotteri rosa. I fenicotteri sono uccelli tropicali e per un attimo ho creduto di avere delle allucinazioni. Poi uno di loro, che era immobile come tutti gli altri, si è girato e mi ha fissato per 10, forse 15 secondi, con quell'aria incosciente che hanno gli animali di fissare gli uomini. Poi si è voltato di nuovo e io mi sono allontanato. Ogni tanto in mezzo al niente spuntano piccole oasi di bellezza. Succede anche senza soffrire. Senza cercarla è successo oggi, che è il 23 di gennaio del 1985, oggi che è nata la tua seconda figlia. Abbi cura di lei, il tuo papà. Questo è un altro pezzo, un altro piccolo pezzo di tutto il puzzle che è stato questo programma nell'arco di questi 10 mesi. Dobbiamo ancora capire se ci sarà oppure no nella serata finale, ma ho la sensazione di sì. Veniamo invece a quello di cui si parla oggi, a piccole famiglie anomale o grandi famiglie anomale, gente che è cresciuta nelle comuni, gente che è cresciuta con parenti che non erano genitori, gente che ha genitori dello stesso sesso o genitori dello stesso sesso che ha figli, anche non dello stesso sesso, a quel punto vale, i figli valgono di entrambi i sessi. Qualunque sia la vostra condizione, 800 24 00 24, la mia piccola famiglia anomala è questa qua. E così stamattina io e Aldo abbiamo accompagnato Ettore a scuola a vedere come erano andati gli scrutini. Gli avevamo promesso, dopo esserci confessati le nostre paure, che l'avremmo accompagnato, e l'abbiamo fatto, perché noi tre dopo ieri sera siamo diventati un gruppo dove si combatte tutti per uno e uno per tutti. E chi se ne frega delle differenze di età? Abbiamo lasciato che Ettore andasse a scuola con i genitori, ovviamente, questo è chiaro, mica possiamo metterci in mezzo a un menage familiare. Però l'abbiamo seguito a piedi e lui sapeva che c'eravamo. Ci siamo messi in disparte con gli occhi verso l'entrata della scuola, che è in una via trafficata e quindi non ci si notava. La famiglia Felice è entrata verso le 8:15 nel portone e noi sapevamo che se anche la scuola non era finita ufficialmente, nessuno avrebbe lasciato i propri bimbi lì, se li sarebbe tenuti, perché il giorno delle pagelle è un giorno speciale. E lo sanno tutti che nessuno viene bocciato alle elementari, però i voti ci sono per qualche motivo, no? E i bambini devono essere motivati a fare bene, anche con giudizi che possono essere negativi. E quindi tutti sono spaventati prima e felici dopo. Ettore in particolare era terrorizzato, ma è un bambino forte. Ha imparato a giocare alla PlayStation anche se non ce l'ha. È innamorato di una bimba bellissima. Ettore è coraggioso e io ho molta fiducia in lui. E poi ci siamo io e Aldo a fargli coraggio. Si fanno le 8:30 e poi le 9 e i gruppi familiari entrano ed escono, ma Ettore e i suoi non si vedono. E allora ci preoccupiamo un po', perché magari le insegnanti li avevano tenuti a parlare per qualche motivo che noi non possiamo conoscere. E allora noi due troviamo un piccolo bar da dove l'ingresso della scuola sia ben visibile e ci sediamo a bere un caffè. Uomini che parlano davanti a un caffè ce ne sono tantissimi a Milano, di solito parlano di finanziamenti, di reti informatiche o di donne. E di calcio, ma quello sempre, ovunque. Ma io e Aldo parlavamo solo di Ettore. Aldo l'aveva appena conosciuto ma gli piaceva e allora io gli raccontavo del tennis e della pizza. Lo facevamo per diminuire la tensione in realtà. Sì, perché man mano che passava il tempo eravamo sempre più nervosi. Cioè non era più come fossimo Portos, Athos e Aramis. No, eravamo più che altro mamma e papà che si preoccupavano per il loro bambino. Nei nostri cuori pieni di dubbi avevamo adottato quel piccolo tennista fallito. E le sue paure erano le nostre sofferenze. Eravamo una coppia e allora ci siamo guardati in faccia e ce lo siamo detto. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. È sempre delicato parlare di omosessualità. Perché comunque un po' comunque fai sbagli. Però fortunatamente io sono tranquillo, non ho niente da nascondere. Il mio sguardo non cambia mai quando un uomo davanti a me si mette a limonare con un altro uomo, a meno che quello non sia mio padre. Ecco, quello credo che mi darebbe un po' fastidio. Però vabbè, questo è un altro discorso. Insomma, quando ci siamo detti che sembravamo una coppia, ci siamo messi a ridere e l'abbiamo lasciata un po' lì. Ma quel che mi è rimasto è che in fondo, anche se ne avevamo sorriso, ci poteva benissimo stare. Cioè, poteva essere anche un po' strano, ma se io e Aldo fossimo stati marito e marito, che aspettavano loro figlio, che usciva dalla scuola con la pagella, non sarebbe stato poi così strano. Non credo che saremmo dei cattivi genitori. Vogliamo bene a quel bambino. Gli vogliamo bene perché vogliamo il suo bene. Insomma, stavo facendo questi pensieri che mi aiutavano a superare la tensione per il risultato, quello di Ettore, quando lui è spuntato fuori dal portone e ci ha cercati con lo sguardo. Noi ci siamo alzati e ci siamo sbracciati per farci vedere. Era solo. I suoi erano rimasti dentro. Lui ci ha visti e si è messo a ridere felice e ci ha fatto segno ok con la mano. E allora noi l'abbiamo applaudito lì in mezzo alla strada. Poi lui è rientrato. Io e Aldo ci siamo riseduti e abbiamo cominciato a parlare di politica, più rilassati. Dopo un po' Ettore e i suoi sono usciti e sono andati verso casa. Stavamo per andare via anche noi, però siccome siamo due curiosi e in fondo fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, abbiamo deciso di fare un salto dentro la scuola e dare un'occhiata ai tabelloni con i risultati. Che non si sa mai. E già che c'eravamo abbiamo un po' giocato a fare la parte del marito e marito. E quindi salendo le scale ci siamo presi per mano. La bidella ci ha guardato stupefatta, ma senza cattiveria. Noi abbiamo detto che andavamo a vedere i risultati di nostro figlio. E lei non ha detto una parola, ci ha solo indicato da che parte andare con gli occhi sgranati. Boh, forse non sa che non esistono i matrimoni gay in Italia e non c'è la possibilità di adottare dei bambini. Boh, non so, forse l'abbiamo solo colta di sorpresa. Che è sempre un bel trucco. Io a un certo punto ho anche incrociato lo sguardo di Legna, che era coi suoi genitori e parlava con l'insegnante di ginnastica. E poi mi sono concentrato sui tabelloni. Ettore era stato promosso e i suoi voti erano decisamente buoni. Eravamo soddisfatti di lui. E poi siamo usciti sorridendo. Abbiamo comprato un mazzo di fiori di stagione, ce lo siamo portati a casa. Poi, siccome ci eravamo svegliati presto, ci siamo messi sul divano a riposare, perché ognuno di noi aveva una giornata lunga davanti. E siamo usciti definitivamente dalla parte della coppia, non fosse altro che io ho acceso Sky Sport 24 per vedere la situazione dei rinnovi di contratto dell'Inter. E mi sono ricordato di com'era bello quando ero a scuola io, e a giugno finiva tutto, e per 3 mesi, per tutta l'estate, la vita era di nuovo tutta tua. E mi sono addormentato sognando di un passato che non torna, fatto di amici, di ghiaccioli al limone. Quando mi sono svegliato ho trovato un biglietto di Aldo che diceva «Sono andato a cercare casa». E l'ho apprezzato. Mi sono alzato dal divano che ero sudato come un verro, mi sono fatto una doccia, sono uscito e la spia del cellulare era rossa. C'era una chiamata non risposta e un messaggio in segreteria. Ciao Matteo, sono Claudio. Come va? Che fai questo fine settimana? Ma perché non vieni in montagna da me? Perché la mia è una vita normale! Ed è per questo che la voglio cantare! Quando questa mattina ho cominciato a chiedere attraverso il profilo Facebook del programma qualche storia di famiglie anomale, di persone cresciute in maniera non canonica, insomma, con due genitori presenti, i nonni, i parenti, uno dei messaggi che mi è arrivato era un messaggio di Stella, che cominciava così: mamma conosce papà in manifestazione, si innamorano, papà faceva i burattini. Pronto Stella? Pronto, ciao. Ciao, buongiorno Stella, grazie per essere qui. Buongiorno. Senti, il tuo messaggio è molto più elaborato, però preferisco che lo racconti tu, perché a me piaceva anche solo l'inizio. Papà faceva i burattini e quindi questa cosa qua lo portava ad avere una vita, tu descrivi nel tuo messaggio, abbastanza particolare. Sì, nel senso che voleva crescerci un po' lontano dai canoni familiari normali, quindi magari anche l'istruzione casalinga, queste cose qui, ma insomma io e mio fratello pensavamo anche una vita un pochino più normale, quindi... Senti, voi vivevate in un mulino senza luce, senza acqua calda, scrivevi. Sì, mio fratello, io per fortuna quel passaggio... Poi senti, i passaggi Stella sono stati che tua mamma vi ha riportato in città. Sì, ha riportato in città mio fratello, poi hanno di nuovo avuto una relazione, sono nata io e poi dopo insomma questa storia non funzionava tanto bene, mia mamma ha deciso di tornare a Milano, mio papà è tornato a Bologna e io e mio fratello siamo cresciuti con mia mamma che comunque doveva cavarsela un po' da sola, per fortuna ha avuto una sorella che... Ecco, perché c'è anche zia Susi, mi pare che si chiami, giusto? Sì. Sì, sì. E quindi voi vivevate insieme a vostra zia anche oppure semplicemente era una... Diciamo era una casa ringhiera, mm-hmm. E lei abitava di fronte a noi, quindi praticamente sì, eravamo... A un ballatoio di distanza. Sì, poi era una casa molto bella perché erano tutti un po'... era una grande famiglia. Comunque sì, eravamo di fronte e ci ho sempre insomma preparato la cena, fatto la spesa... Senti, tuo papà l'hai più sentito? Lo senti ancora? Siete in contatto? Sì, no, mio papà assolutamente, ci vediamo sempre, cerchiamo di riunirci in alcune occasioni. Ma fa sempre i burattini? Adesso fa l'artista, diciamo che fa delle sculture di bronzo, pittura e poi commercia quei libri antichi. Cioè un lavoro normale tuo papà proprio, no? No, non è roba da lui. No, senti, poi ha una casa in campagna, cioè una casa di legno. Così. Senti, raccontami che cosa fai tu, Stella, per capire come si cresce da una situazione come questa, come si viene fuori? Si viene fuori che adesso sono al Miami a cercare di vendere i miei vestiti. Se, insomma, il Miami, il Miami, per chi non lo sapesse, è un festival di musica indipendente, giusto? Giusto? Sì, tra l'altro, se qualcuno viene qua, ha dimenticato un pezzo dello stand in studio. Quindi. Senti, tu sei una stilista, giusto? Sì. E fai degli abiti che disegni tu e produci tu? Sì. Hai esatto. Un sito da andare a vedere, Stella? Sì, www.atelierstella.eu. Stella, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie. E saluta mille tuo papà. Poi domenica sono successe due cose. Sapete come sono le mamme, no? un po' come i papà per le figlie femmine. Quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa. E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli. Che quello che ci piace ci definisce, dice chi siamo e quello che possiamo diventare. Ma voi, esattamente dove siete? Io sono qui è stata la storia di una vita riassunta in 10 mesi di programma, ma basterà una sola sera per ripercorrerla tutta. Giovedì 23 giugno alle 21, io sono qui live. Io sono qui live. Matteo Caccia ripropone e racconta una selezione delle migliori puntate della stagione. L'ingresso è gratuito. Per prenotare, inviate una mail a iosonoqui@radio24.it, indicando nell'oggetto 23 giugno e nel testo i nomi e il numero dei presenti. Io sono qui live, giovedì 23 giugno 2011. Un anno di diretta in una serata dal vivo. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella fotografia di oggi potremmo essere tranquillamente nella cameretta di uno psicopatico. Avete presente quelle sequenze di film di serial killer in cui a un certo punto si apre una porta e dietro ci sono foto di persone, ma soprattutto scritte sui muri? È la camera di una ragazza, io credo, perché c'è una porta semiaperta con un grande fiore morbido, forse in gomma piuma, un accappatoio steso ad appendere, ad asciugare, perdonatemi, e poi c'è, vabbè, un ripiano con delle scatole, ma non è quello, è che il muro è pieno di scritte rosse su tutta la parete, ma grandi. Adesso purtroppo la fotografia è un po' sgranata, quindi io non riesco a leggerle queste scritte, però c'è qualcosa di inquietante. Bianca Maria Palmieri, 27 anni, Forlì. I miei pensieri sono piuttosto inquieti e ingombranti e questi sono stati vani tentativi di alleggerimento. Io sono qui. Andate a vedere la foto perché non è niente male. Grazie mille, ricordo sempre la pagina radio24.it, la pagina Io sono qui, per vedere la foto. Si parla di famiglie anomale, cioè di famiglie che non sono prettamente composte da un padre e una madre, da dei fratelli, ma magari da genitori fatti dai cugini, oppure da genitori che sono dello stesso sesso. È il caso, ad esempio, di Paola, che ha chiamato da Vicenza. Pronto, Paola? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, grazie per essere qui, Paola. Grazie a te. Senti, tu sei per strada? Stai andando a prendere tua figlia? No, sono ancora al lavoro. Ah, ok. Tu hai una figlia di 13 anni, giusto? Sì. Che è una, sì, figlia, che è una figlia tua? Sì, esatto, sì. Che è venuta con il mio ex compagno poi invece mi sono innamorata di una donna, ecco, fondamentalmente. Okay, beh, si può dire, no? Cioè è successo così. Senti, da quant'è che stai con questa persona? 8 anni. Da 8 anni e tua figlia vive con voi? Sì, sì. Senti, questa cosa ha delle difficoltà? Guarda, ti posso dire che noi facciamo di tutto perché non ne abbia, nel senso che non siamo quel tipo di persone che vanno in giro a fare sceneggiate e cose varie. Uh-huh. Cerchiamo di essere colleghe e amiche in giro. Ma perché siete colleghe di lavoro? No, colleghe... Sì, sì. Ah, siete anche colleghe di lavoro, ok. Sì. Ok, che lavoro fate, Paola? Cosa? Che lavoro fai? Che lavoro fate? Impiegate. Ok. Quindi dicevi, il problema non è tanto quello del comportarsi in maniera appariscente. Ma guarda, ti dico, lei ne patisce, ma più che altro perché è il padre che non la cura, insomma, non se ne occupa. E va a finire che se ne occupa di più la mia compagna, che lui è quello che le fa più... più dispiacere, diciamo. Cioè, chiaramente, in sostanza è proprio la mancanza del padre che non c'è, perché lei lo conosce, ovviamente. Sì, sì, sì, sì, certo, siamo stati insieme anche dopo che lei era nata, poi ci siamo lasciati e dopo un paio di anni ho conosciuto quest'altra ragazza. Ma e c'è, scusami Paola, tu hai visto in tua figlia qualche particolare difficoltà, al di là della questione del padre che non c'è, questa è chiaramente una difficoltà perché lo conosce e lo vede poco, ma nel fatto di vivere con due donne? Ma sicuramente è diverso dalle altre famiglie. Beh, quello lo immagino. Però ti parlo proprio di difficoltà, cioè di momenti in cui tu hai pensato forse per lei è complicato. No, proprio così, che mi abbia dato questa impressione, proprio che non ce la facesse, che se male, no. Perché naturalmente sono molto attenta su questo, perché lei è il mio punto di riferimento, nel senso che se lei mi dimostrasse che sta male o che ha difficoltà proprio grandi, eccetera, eccetera, io sarei disposto a lasciare tutto per lei. Senti Paola, invece qualche difficoltà di carattere sociale? È quello un po' di più, perché come ti dico facciamo finta di niente, tutto per non dare problemi a lei, però neanche a noi, perché poi sì, per non essere discriminate, tra virgolette. Ma ti è mai capitato però che qualcuno dicesse qualcosa o che accennasse o che facesse, sai, quegli ammiccamenti stupidi? No, se devo dire la verità, no, non mi è mai capitato, non so se facciamo bene se fate quindi finta bene. Esatto, se facciamo così bene che non se ne accorgono, oppure se magari vedendo il nostro impegno del far finta di niente, anche loro si impegnano a non punzecchiarci, ecco, può essere anche questo. Che classe fa tua figlia, Paola? Fa la terza media. Quindi l'anno prossimo cosa fa? Voleva fare l'estetista, ma non è molto convinta, la verità. Va bene, Paola, in bocca al lupo e grazie mille. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao. Oggi facciamo in tempo a prendere solo la telefonata di Paola. Ringrazio Enrico, ci sarà modo per sentirci un'altra volta. Vi leggo un racconto, che questa volta non è il racconto che vi racconta, perché da qualche venerdì a questa parte vi leggo un altro tipo di racconto, che è un racconto che esce la domenica con La Domenica del Sole 24 Ore. C'era un vecchio baule nella camera da letto di mia mamma. Era il più vecchio baule che avessi mai visto. Uno di quelli col coperchio arrotondato, come la pancia di un ciccione. Ficcata dentro questo baule, sotto la biancheria del corredo, quella che non si usava mai perché era il corredo, sotto l'argenteria che non si usava mai perché era un regalo di nozze, e sotto ogni sorta di nastri fantasia, bottoni, certificati di nascita, sotto tutto questo c'era una scatola con le foto di famiglia. Mamma non permetteva a nessuno di aprire il baule. Teneva nascosta la chiave, ma un giorno io la trovai nascosta sotto lo zerbino, e da quel giorno, quando mia madre non guardava, me la svignavo in camera da letto, chiudevo a chiave e aprivo il baule. C'erano molte foto là dentro e mi piacevano tutte, ma ce n'era una sola che le mie dita bramavano stringere e i miei occhi non vedevano l'ora di ammirare. Quella foto era stata scattata una settimana prima di sposare mio padre. La domenica, con soli 2 euro, con solo 50 centesimi in più rispetto al prezzo del giornale, vi portate a casa un racconto di un grande della letteratura. In questo caso è John Fante, Rapimento in famiglia e altri racconti. La settimana prossima sarà La Metamorfosi di Kafka. Grazie a Tiziano Bonini, a Fabio Rudi Cantadori, a Viola Bottoni e a Stefano D'Andrea. L'appuntamento è per lunedì in diretta, ma vi aspetto giovedì 23 giugno alle 21 qui nella sede di Radio 24. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi? Dove siete?